ai relatori che hanno aderito al nostro invito. Devo in modo particolare ringraziare il professor Moreschini per il lavoro di preparazione che ho intravisto così tra le dita loro. È stato abbastanza intenso e accurato e intelligente. E con lui, permettete che ricordi, anche se sono sempre stato molto, molto parsimonioso nel ricordare le glorie di casa, ecco in questa occasione il nostro segretario, il professor Menestrina, che veramente legato anche da una feconda amicizia col professor Moreschini, credo si sia adoperato notevolmente proprio per la riuscita di questo convegno. La ricorrenza è molto felice perché, a quanto mi sembra e a quanto mi si assicura, è l'unica iniziativa che in questo 16° centenario della morte di Gregorio Nazianzeno sia stato messo in cantiere in Italia. E mi felicito sinceramente di questo, no? Ecco, questo detto per quanto riguarda il mio compito ufficiale, diremo, ecco, devo aggiungere poi a titolo personale, direi una gioia particolare nel rivedere qualcuno dei vecchi amici e relatori, a cominciare dal padre Spidli e dal professor Quacquarelli. Non voglio far torto a nessuno se ricordo questi due che insieme col professor Moreschini sono stati già partecipi di un incontro nel 1984, quando abbiamo ragionato dei martiri anauniesi e della reazione pagana alla fine del IV secolo. Qui si contiene già, soprattutto a proposito del Nazianzeno, un nutritissimo articolo del professor Moreschini, vero, sul Nazianzeno e la persecuzione anticristiana di Giuliano l'Apostata, la sua posizione rispetto appunto alla situazione, anche al momento particolare così travagliato che immediatamente, vero, lo aveva preceduto. Ecco, se mi consentite ancora una parola personale, io vorrei dire proprio con l'occasione la mia personale simpatia per il personaggio che oggi viene messo all'attenzione generale con questo convegno. Non tanto perché è uno dei cappadoci e perché i cappadoci ci ricordano i martiri anauniesi, è molto ridotto questo filo, come sappiamo, perché è solo a proposito di San Sisinio che la lettera di San Vigilio dice che era greco o cappadoce. Ecco, poi insomma i trentini hanno preferito aggrapparsi di più alla parola strana cappadoce e insomma sempre un filo, vero, interessante, però non è la cosa principale. Dei tre grandi cappadoci di quell'epoca si parla molto di San Basilio e giustamente si parla di Gregorio Niceno, e ho l'impressione invece che il Nazianzeno è un po' la Cenerentola dei tre, e anche per questo forse merita la nostra simpatia. A me ha fatto sempre un'enorme impressione la umanità di quest'uomo. Si dice convenzionalmente poeta, ma poeta nel senso di interprete veramente di un forte travaglio, di un forte fermento di sensibilità umana e cristiana, che viene fuori così, in modo così impressionante dai suoi scritti. Ecco, è un uomo al quale si potrebbe applicare molto la parola, lo slogan, vero, di un libro famoso, invece scritto per il Medioevo, L'amour de l'être et le désir de Dieu, sospeso come tra questi due termini, l'amore delle lettere e il desiderio di Dio, e continuamente così in bilico tra i due, stirato tra le due sfere. Ma è così, questo così lo sento io, e mi scusate se proprio per questo esprimo con l'occasione la mia personale simpatia e l'apprezzamento per il fatto che è stato preso in considerazione. proprio perché lo sento, per quel poco che lo conosco, lo sento come un uomo così travagliato, tra sfere così diverse, così sospeso tra mondi, tra aspetti della vita così antitetici e che pur devono stare insieme. La vita contemplativa e la vita attiva, la vita, l'attività pastorale e sociale in cui è coinvolto anche suo malgrado, e insieme l'attrazione e il bisogno, diciamo pure, il bisogno profondissimo della contemplazione e della concentrazione, il chiasso da un lato, la pubblicità e il silenzio dall'altro. Ecco questo tormento che l'uomo ha subito fino ad esserne travagliato continuamente e a essere condannato a riuscita non brillante, ovviamente, nel settore pubblico, dove individualità potente e prepotente, ma si trova continuamente rimorchiato da altri che progettano e programmano per lui e al suo posto. Il contrasto tra questi poli diversi della vita che lo ha tormentato fuori e fuori, si fa sentire e impressiona fino ad oggi proprio la vita di uomo e di cristiano, di quest'uomo. Non parliamo di testi famosi come il suo Supremum Vale dalla chiesa di Costantinopoli, che egli aveva rimesso in piedi nell'ortodossia, e che anche come testo letterario mi pare che valerebbe almeno la notorietà della Dio Monti Sorgenti dall'Acqua, eccetera, altro testo letterario famoso, ma certamente più largo e più immerso in una attività pastorale, in una visione universale della Chiesa. Ecco, non intendo qui fare una relazione, solo dire una mia impressione. E veramente con l'occasione richiamare come anche proprio nell'intento del nostro corso istituzionale noi stiamo sviluppando un'attenzione notevole non solo per le formulazioni teoriche, per le codificazioni dottrinali come tali, ma il tutto dovrebbe servire per affinare una attenzione al cristianesimo vissuto caso per caso, in un diapason di sensibilità che è diverso da uomo a uomo e che implica esperienze sempre nuove in situazioni in cui ognuno è chiamato ad interpretarlo. Forse in questo senso il Nazianzeno ci può dare anche oggi un aiuto valido e un esempio. Ecco, avete capito da questo, almeno spero, quanto io apprezzo il fatto di aver tematizzato questa persona e quest'uomo, e non mi resta che da augurare veramente il miglior successo a questa iniziativa di studio. Passo la parola subito al professor Moreschini, che con maggior competenza di me, certo, potrà dare una vera e propria introduzione ai lavori. No, non con maggiore competenza, perché abbiamo ascoltato poco fa Monsignor Roger che inaspettatamente, almeno per me, si è già calato nel problema del personaggio e mi ha fatto molto piacere sentire quello che ha detto. E non vorrei che apparisse una specie di minuetto di ringraziamenti: il signore ha ringraziato me, ora ringrazio lui, anche se è un po' una prassi normale di queste nostre delle riunioni degli studi. E qui c'è scritto nel nostro programma saluti alle autorità, e naturalmente nessuno, tutti sappiamo che Monsignor Roger è un'autorità perché è direttore dell'istituto, ma vorrei sottolineare anche la sua auctoritas proprio sul piano scientifico, di cui abbiamo avuto anche un rapido esempio, auctoritas, la sua autorità, perché appunto è per merito suo, oltre che di tutto l'istituto naturalmente, che qui in questa sede si svolgono frequentemente convegni, incontri di studio. Io ricordo appunto che non solo quella dell'84 in cui fu parte molto attiva l'amico Quacquarelli, ma anche più recentemente nel 1988, due anni fa, si tenne proprio qui in questa sede un interessante convegno sulla biografia e la geografia nella letteratura cristiana antica e medievale, organizzato concretamente, certo, scientificamente dall'amico Ceresa Castaldo qui, ma certamente anche Monsignor Roger dette il suo impulso proprio per queste ricerche. Il volume, tra l'altro, è uscito adesso e lo si può vedere. E ricordo che proprio in quell'occasione Monsignor Roger manifestò l'interesse suo e dell'Istituto a moltiplicare o almeno a continuare in questa tradizione di incontri su problemi di letteratura cristiana antica. Allora io ho colto l'occasione al volo, l'ho preso sulla parola e dopo pochi mesi appunto gli ho proposto questo studio, questo nostro incontro su Gregorio di Nazianzo, che Monsignor Roger ha accettato, vedo, con molto entusiasmo. Ha sottolineato l'opportunità di una riflessione di studi su questo personaggio, non solo e non tanto perché il 16° centenario della sua morte, anche se gli incontri di studio si fanno spesso in base ai centenari, se uno non nasce o non muore magari non glielo fanno per quello, però appunto una riflessione è opportuna perché può essere utile cercare di ridare al Nazianzeno appunto la sua giusta collocazione nella triade dei cappadoci e nelle correnti teologiche e letterarie del suo tempo. Per questo motivo io ho pensato, si è pensato, non io solo, abbiamo creduto opportuno dividere i lavori in due giornate, dedicandone una al teologo e l'altra appunto allo scrittore, così come emerge in modo molto chiaro dal programma. E sono stati così gentili da darci la loro collaborazione studiosi, colleghi, amici che hanno per lungo tempo studiato Gregorio Nazianzeno sul piano teologico, e faccio appunto i nomi del professor Spidlich, di Trisoglio e Kerch, i quali con interessi diversi e con metodi anche diversi, però hanno da sempre recato contributi sostanziali alla conoscenza del Cappadoce. E faccio anche il nome di Antonio Quacquarelli e Ceresa Castaldo. Antonio Quacquarelli non è forse esclusivamente uno studioso di Gregorio, anche se lo conosce bene, ma la sua esperienza di studi e la sua molteplice attività di organizzatore di cultura, eccetera, ne fanno di lui una persona della quale non si poteva fare a meno, direi, ecco, proprio quando si vuole organizzare appunto una giornata di approfondimento su qualunque problema della letteratura cristiana antica. E Ceresa Castaldo ha presentato, intende parlarci del problema molto grave, molto duro dell'umanità di Cristo secondo la concezione di Gregorio Nazianzeno, e quindi lo ringrazio anche per aver scelto un tema così ostico, un po' duro, sono certo che ci darà un interessante contributo. La giornata di domani è dedicata invece all'aspetto di Gregorio Nazianzeno, scrittore o artista, perché appunto anche questo è un aspetto che andrebbe esaminato in quanto, se mi permettete di dire solo due parole ancora, non che sia ignoto questo aspetto, ma talvolta è studiato in modo un po' troppo meccanico, per esempio come anche studi recenti hanno fatto delle raccolte di elementi che si possono poi trovare, elementi della sua dizione, del suo lessico, del suo stile, che in fondo si possono trovare anche in altri autori a lui contemporanei, ma vedere proprio in che cosa consista la peculiarità di questo scrittore siamo ancora lontani, direi. E allora io credo che a questo riguardo, cercare di approfondire l'aspetto di Gregorio Nazianzeno, scrittore, credo che sarà senza dubbio utile la presenza qui di Ugo Criscuolo dell'Università di Napoli, che molto gentilmente si è prestato a dare la sua a portarci la sua interpretazione sull'imitatio e tecnica espressiva di Gregorio Nazianzeno, appunto l'imitatio dei modelli classici ma anche la novità di Gregorio. E io penso che forse vada approfondita un po' alcuni degli aspetti delle omelie per vedere l'aspetto più personale di esse. E Roberto Palla presenta un'indagine sugli Anecdota Greca di Ludovico Antonio Muratori e il testo degli Epigrammi, un saggio, che è uno studio e credo sarà molto interessante, perché parte da un problema di carattere filologico, gli Anecdota Greca e il testo degli Epigrammi, ma appunto affronta un aspetto della problematica del Nazianzeno che noi dobbiamo tenere presente, in quanto proprio anche l'aspetto filologico delle opere del Cappadoce presenta a tutt'oggi numerosi problemi che attendono una soluzione. Non possiamo correre il rischio di riunirci per fare solo delle considerazioni magari valide senza tenere d'occhio anche l'aspetto filologico, linguistico, che Palla appunto dovrà affrontare. Come si usa poi, c'è il Nachleben di Gregorio Nazianzeno, che dovrebbe, a cui ho tenuto molto, ho tenuto che alcuni competenti ci dessero il loro parere, perché Gregorio, come noto, era il teologo per eccellenza in età bizantina, e parlare di studi bizantini, che adesso hanno un forte impulso così in questi ultimi decenni, sarebbe stato un po' arduo se non mi fossi rivolto a persone particolarmente esperte come Carmelo Crimi dell'Università di Catania ed Enrico Maltese qui di Trento, i quali affrontano proprio due aspetti della fortuna di Gregorio Nazianzeno nel mondo bizantino. Certo, su un problema come questo ci vorrebbe forse un convegno a parte, un convegno soltanto. Non si può fare tutto per ovvi motivi, ma intanto io ringrazio questi colleghi che hanno cercato di dare alla problematica un aspetto il più possibile omogeneo e vario. Due comunicazioni soltanto ci saranno, ma il fatto che siano comunicazioni, questo non significa che le comunicazioni valgono meno delle relazioni. Le comunicazioni sono appunto un'indagine più limitata su argomenti più precisi, che, guarda il caso, hanno anche questi attinenza con il mondo bizantino, cioè un'indagine sulla esegesi di alcuni commentatori bizantini. Sono commentatori meno noti, Cosma di Gerusalemme o Niceta Davide non hanno naturalmente il peso di un Michele Psello. Però ecco, crediamo che proprio in questa omogeneità della ricerca anche queste indagini più puntuali abbiano la loro funzione. Io credo di avere fatto fino a questo punto quello che dovevo, cercando di presentarvi i lavori che abbiamo programmato. Adesso spetta appunto ai presenti, ai relatori, dai quali attendiamo una parola particolarmente valida. E forse sarebbe meglio che